un bel vantaggio che, come dire, allarga la possibilità appunto per tutti gli utenti. Voi arrivate in Italia adesso, che tipo di riscontro state raccogliendo? Il riscontro, devo essere sincero, è stato ottimo. Abbiamo aperto il nostro sito internet al pubblico il 28 settembre del 2016, quindi siamo molto molto giovani, però in Italia abbiamo avuto un riscontro positivo, abbiamo circa 70 strutture già affiliate al nostro programma, in continua crescita a livello numerico. Abbiamo un buon portfolio già presente nella costiera amalfitana, nel Salento e anche nella parte di Roma, e stiamo cercando chiaramente di espanderci il più possibile e di offrire una collezione di strutture varia ai nostri membri. Al momento siamo operativi in 15 paesi in Europa, per riassumere tutto ciò che va dalla Germania sino al Portogallo, quindi includendo Regno Unito, Spagna, Francia, Italia, Svizzera, Germania, Belgio, Olanda, eccetera. Ci muoviamo su circa al momento quasi 400 strutture e offriamo circa 30.000 camere ai nostri membri. Però chiaramente questo è solamente una fase iniziale, seconda fase ci andiamo a spostare sull'Eastern Europe, quindi tutta la parte della Croazia, la Grecia, la Russia, il Nord Europa e anche Latin America. Ora ci fermiamo per una piccola pausa, nella seconda parte parleremo di una nuova shopping destination su cui i brand del lusso stanno puntando, Varsavia, e poi di consumi e moduli. Restate con noi tra pochissimo. Essere e avere. Di nuovo in studio con Essere e Avere, da meta turistica emergente a nuova capitale del lusso europeo. Parliamo di Varsavia, centro economico, politico e culturale della Polonia, posizione strategica quasi al centro dell'Europa, sta emergendo come nuova shopping destination. Lo testimonia il progetto che vi raccontiamo, uno shopping mall per i brand di alta gamma italiani e non, si chiamerà Ethos e sorgerà nel cuore del centro storico. Ne abbiamo parlato con Lorenza Bassetti, portavoce di KSP, la società polacco-americana che lo sta realizzando. Hultwick Silverstein Properties, che appunto, come dicevi bene, è una joint venture tra una società polacca e una società americana, che peraltro quest'ultima, la Silverstein, è stata anche autrice delle alcune delle più belle creazioni della nuova Ground Zero nell'ex World Trade Center di New York. E quindi questa società, dicevo, è stata creata proprio per sfruttare, diciamo, l'opportunità che questo nuovo crocevia rappresenta in generale per i nuovi consumi. Abbiamo delle ricerche a proposito che dimostrano come in questi anni la Polonia è in grande fermento e quindi rappresenta questa un quartiere esclusivo per i marchi del lusso, non solo italiani ma sicuramente tra questi le preferenze dei polacchi. Infatti il 22% dei polacchi dice di apprezzare i marchi made in Italy o comunque di design e stile made in Italy, in particolare rispetto a quelli francesi o svizzeri che vengono subito dopo. Si trova in un bellissimo quartiere nel centro di Varsavia che si chiama Three Crosses Square, praticamente la piazza principale di Varsavia, proprio nel centro dove passava la Royal Route. Un palazzo molto bello, totalmente sostenibile, molto naturale, anche con un design particolarmente accattivante, che si trova in questo bel centro, delle vetrine amplissime di alte 8 metri, quindi di grandissimo impatto, e in una zona che dove c'è poi la borsa, dove ci sono i caffè, i ristoranti. Un punto di riferimento, immagino, non solo per il mercato locale ma anche per il turismo, vista anche la posizione particolare di Varsavia, crocevia d'Europa in qualche modo. Nell'ultimo anno sono stati oltre 4 milioni i turisti, che si vanno ad aggiungere a un pubblico locale di quasi 2 milioni di persone, e un flusso quindi omogeneo piuttosto interessante, che anche ha delle capacità di spesa piuttosto elevate, mediamente molto al di sopra delle capacità di spesa che si registrano sia per i turisti che per il pubblico locale, di una città invece più diciamo nota come meta turistica, che è Praga. Focus sui trend. Grazie Grazie al mondo digitale oggi i prodotti e servizi abilitano le nostre passioni e le nostre professioni. Così diventiamo musicisti, designer, fotografi. Parola d'ordine modularità, ci facciamo spiegare il perché da Lucia Cromesca di Future Concept Lab. Ciao Lucia, bentrovata. Buonasera a tutti. Allora, con che cosa iniziamo? Qual è il primo caso che hai selezionato per noi? Ecco, il primo caso è Rolli. Rolli è un'azienda giovane con il quartiere generale a Londra, già molto nota per aver rivoluzionato proprio il modo di fare musica, perché loro creano dei dispositivi per la creazione di musica in modo veramente moderno e intuitivo. Addirittura hanno lanciato una tastiera con i tasti su una superficie morbida che si chiama Seaboard. Ecco, Rolli ha lanciato Rolli Blocks qualche mese fa, un sistema modulare di composizione musicale. I Rolli Blocks sono un set di veri e propri synthesizers modulari poco più grandi di uno smartphone. Si incastrano tra loro perché ogni componente ha dei conduttori magnetici ai lati e sono ovviamente collegabili a iPhone, iPad attraverso Bluetooth. Ogni blocco individuale offre diverse opzioni per creare musica. Abbiamo postato il video sulla nostra pagina Facebook. In pratica, Lucia, è come avere uno studio di registrazione in tasca. Sì, cioè sviluppare veramente un kit personalizzabile secondo le proprie necessità e anche il budget fa sognare ovviamente sia i principianti che i musicisti. Da musicisti a designer parliamo di un'app in questo caso. Siamo sempre nel tema della digital empowerment modulari, sia per i professionisti e non solo. Ecco, fin dall'arrivo dell'iPad, le applicazioni per gli architetti e i progettisti sono in continua evoluzione. L'applicazione Morfolio Trace è un'applicazione di disegno veramente intuitiva. Si ispira all'uso di carta da lucido o semitrasparente, quello un materiale più frequentemente usato dagli architetti, e lo trasforma da mezzo analogico in strumento digitale su un dispositivo touch mobile in qualsiasi smartphone. L'applicazione consente a chiunque di disegnare direttamente sopra le immagini, come se uno facesse uso della carta da lucido. La parte più interessante è che da alcuni mesi lo sviluppatore ha aggiornato la versione Trace e ha integrato nell'app lo strumento Morfolio Stencil. È il primo kit di stencil personalizzabile al mondo per il disegno digitale, che aumenterà l'impatto di qualsiasi presentazione, perché puoi aggiungere i stencil, una tecnica che è resa digitale e assicurerà sicuramente il divertimento per chi vuole sperimentare. Passiamo alla fotografia, appena presentata a Las Vegas, la nuova fotocamera compatta di Polaroid. Parliamo di un cult. Ecco, la Polaroid celebra il suo 80° anniversario, è perciò che ha lanciato Polaroid Pop, l'ha presentato al CES qualche giorno fa, è la nuova fotocamera istantanea e anche un stampante, cioè riprende un po' la filosofia delle precedenti Polaroid Snapchat. Non è solamente una fotocamera istantanea, ma anche una fotocamera digitale. Può essere collegata con smartphone, tablet, attraverso wifi e bluetooth. Questo permette proprio di usare la fotocamera stessa come stampante istantanea on the go. Si può stampare ovviamente delle foto di dimensioni più grandi, classico Polaroid, 3x4 pollici con bordo bianco per intenderci, con la carta zinc, quella che avevano lanciato qualche anno fa. E ovviamente l'altra cosa da dire è che il prodotto non sarà disponibile prima della fine dell'anno, così possiamo sognare ancora un po'. Modulare anche in questo caso, perché Lucia, correggimi se sbaglio, si tratta di una scatoletta come quella del primo caso, nessun richiamo in questo caso all'aspetto retro delle Polaroid. Nessun richiamo, molto pop e colorata, semplice, leggera, sicuramente assomiglia più a Lego che a una classica Polaroid. Ultimo caso, parliamo di una tecnica antica come il mosaico, rivisitata anche questa in chiave digitale. Ecco, le moderne tecnologie di stampa con l'arte antica del mosaico mescolate per dare vita in un prodotto nuovo, innovativo, 4.0, non 2.0, i mosaici digitali, cioè reinterpretano l'antica arte, come dicevi tu, del mosaico. E chi lo fa meglio di tutti? Sorpresa, un'azienda pugliese che si chiama Mosaico Digitale. Nel 2016 hanno addirittura vinto il prestigioso Red Dot Award per le proposte innovative. Che cosa fanno? Loro permettono la progettazione di mosaici unici in resina, in qualsiasi forma e superficie, sia per l'interno che per l'esterno. La realizzazione è molto semplice, perché si parte da una immagine digitale scelta dal cliente, elaborata attraverso un software esclusivo con un procedimento tecnologico ovviamente speciale, che permette di scomporre l'immagine digitale iniziale in pixels. Il mosaico digitale è poi realizzato su un film di resina su cui viene stampata l'immagine, addirittura lo spessore di questo film è solo 2 mm, perciò garantisce la totale adattabilità in qualsiasi spazio, cioè può essere posato ovunque rispetto al mosaico tradizionale. E ogni tessera, anche perché ogni pixel viene trasformato in tessera, e di dimensioni, di forme irregolari, non importa, sono numerate, e quello permette agli installatori di posarla correttamente in modo semplice, molto veloce e anche economico. Dunque grande versatilità. Grazie a Lucia Cromesca, alla prossima. Alla prossima. Il consumautore. Ed eccolo il nostro spazio dedicato al consumautore in compagnia, come sempre, di Francesco Morace. Buonasera Francesco. Buonasera Maria Luisa e a tutti i radioascoltatori. Il tema di questa sera è, diciamo, dedicato a un libro importante di un autore importante conosciuto a livello globale, Martin Lindstrom. Torniamo dopo qualche settimana, Luisa, a parlare di marketing, a parlare di riflessioni anche manageriali. Il libro si chiama Small Data ed è un'interessante lettura che non è alternativa ai big data, ma è complementare. Cioè Lindstrom ci dice: attenzione a capire anche quali sono i dettagli della nostra vita, dei nostri comportamenti nel mondo, e lui tra l'altro lo fa comparando diverse culture, diversi paesi, quindi ancora una volta l'unicità locale che diventa importante anche in una visione globale. A me viene in mente una tua definizione che fa parte anche un po' della tua storia, della tua attività. Tu più volte mi hai parlato dei segnali deboli, segnali da saper rintracciare e individuare. Sì, allora anche qui c'è un cambiamento. Quando noi anche come istituto abbiamo cominciato a ragionare sui segnali deboli, parliamo di 15-20 anni fa, erano segnali di alcune elite, che erano o i trendsetter o i più giovani, ed erano segnali che poi si rafforzavano nel tempo, magari dopo un anno, dopo due anni. Cioè quello che vedevi a Londra o a New York poi lo ritrovavi magari nelle città più di provincia dopo qualche anno. Oggi questi segnali deboli, e quindi un'attenzione anche al dettaglio, però hanno una capacità di diffusione quasi immediata, quindi sono segnali deboli che diventano subito molto forti. Ecco, quindi questo è cambiato, e devo dire che Lindstrom lo racconta poi molto bene, anche parlando di realtà di mercati come la Russia, come l'India, come il Brasile, quindi non solo i classici mercati occidentali che noi osserviamo. Quanto è importante oggi entrare nella quotidianità, nelle abitudini di tutti i giorni, nei piccoli gesti spesso rivelatori di grandi realtà? È sempre più importante, perché i consumautori definiscono il loro progetto di vita non solo partendo dai momenti straordinari e quindi dalle grandi svolte, no, della nostra vita, della nostra biografia, ma costruendo una quotidianità che è fatta di eccezioni, no? Quindi il palinsesto cambia, e quindi ogni piccolo elemento, dettaglio, può essere per un bravo manager o per un bravo comunicatore di stimolo e di ispirazione per una visione innovativa. Grazie a Francesco Morace, grazie a Pietro Lacorte in regia. Essere Avere torna domenica prossima. Non mancate. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.